Olimpia, miti e verità dello sport, di Dario Ricci. 38 medaglie, 38 medaglie paralimpiche, come se sul fondo di quella piscina a Città del Messico ci fosse stata una miniera d'oro, d'argento e di bronzo e i nostri nuotatori l'avessero attinto a piene mani. Davvero straordinario quello che la nazionale di nuoto ha saputo fare negli ultimi campionati del mondo. Ecco, appunto, qui a Olimpia oggi non parliamo dei campionati del mondo di Budapest, che abbiamo già ampiamente celebrato con i trionfi di Detti Paltrinieri e soprattutto della divina Federica Pellegrini, ma c'è stata un'altra grande nazionale di nuoto, quella del nuoto paralimpico, che proprio nei recentissimi mondiali di Città del Messico ha davvero fatto man bassa di medaglie. E allora oggi qui a Olimpia siamo tanti da tutte le parti del mondo. Allora saluterei innanzitutto l'ospite principale, a cui va una medaglia aggiuntiva oltre al doppio oro, all'argento e al bronzo che ha vinto a Città del Messico, perché l'abbiamo beccato nel pieno della notte australiana dove vive. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport, a Simone Barlam. Grazie mille Dario, buonasera a tutti. Simone, tu dove sei in Australia? A che ora del mattino è, scusa? Adesso qua sono le 5 del mattino e sta per iniziare il primo allenamento della giornata in acqua. Quindi insomma, sono un paesino che è a 30 minuti da Sydney. Ecco, quindi questo direi un bel modo per festeggiare gli ori mondiali. Accanto a me in studio, decisamente più riposati, Stefano Tirelli, professore di tecniche complementari sportive alla Cattolica di Milano e mio abituale compagno di viaggio quest'anno a Olimpia. Ben ritrovato, professore. Grazie Dario, ben ritrovati a tutti. E poi uno degli artefici del miracolo di Città del Messico, perché comunque in piscina ci ha buttato lui, Simone, cioè Riccardo Barlam, amico, collega e anche regista di quel film I pesci combattenti, che racconta tanto della nazionale di nuoto paralimpico. Benvenuto Riccardo, ben ritrovato. Ben ritrovati a voi tutti, e a me imbarazza un po' stare qui in queste in questa forma di papà ma anche di giornalista, quindi comunque accetto il gioco e siamo qui. Beh, allora, visto che devi essere prima giornalista e poi papà, fai tu la prima domanda a Simone, perché insomma so che avete vissuto fianco a fianco le emozioni di Città del Messico, quindi ecco, regalaci un po' le allora, sensazioni di pancia di questo trionfo. Io ti dico che prima della sua finale dei 50 metri stile libero S9, che era la penultima gara in calendario ai campionati mondiali, l'Italia era terza sul medagliere, col Brasile che era quasi terzo, perché c'è stato un brasiliano che ha vinto inaspettatamente una finale pochi minuti prima, e quindi questa finale dei 50 metri di Simone, che era diciamo il favorito perché aveva il tempo migliore dell'anno sulla specialità, se vinci la medaglia siamo terzi, se perdi cosa possibile, una gara di 20 secondi, quarti. E io ti dico dagli spalti dove ero, avevo mal di stomaco, immagino lui, non so. Com'è andata Simone? Beh, la tensione si è fatta molto sentire, anche considerando che era la mia prima trasferta internazionale, la mia prima vera gara importante. E continuavo ad andare al bagno, ero molto molto teso. La tensione dopo un po', dopo che le gare andavano avanti, diminuiva, però c'era sempre. Mi ricordo che tutti mi dicevano che avevo una faccia bruttissima alla prima gara nel centro dorso per la tensione. Tra l'altro tensione che è stata anche acuita proprio rispetto alla rassegna ridata messicana dal fatto che questa stessa manifestazione è stata rinviata da alcune settimane, perché nel momento in cui doveva svolgersi c'era stato, e voi eravate già lì presenti in ritiro pronti a gareggiare, il terremoto che ha creato tanti danni e vittime proprio a Città del Messico e in altre zone del paese, no Simone? Sì sì, assolutamente, noi stavamo iniziando lo scarico in vista della gara, erano ormai una decina di giorni che eravamo là e eravamo alla mensa, stavamo finendo il nostro pranzo, e a un certo punto la terra ha iniziato a muoversi molto e siamo corsi fuori, e per fortuna sapevamo già dove recarci e cosa fare, perché qualche ora prima, essendo quel giorno l'anniversario del più grande terremoto che c'era stato nel 1980, adesso non ricordo. L'86, noi che c'avevamo, esatto. 85, sì, noi che abbiamo qualche annetto in più ce lo ricordiamo bene, perché mise anche a rischio i mondiali di calcio dell'anno successivo, quel terremoto. Esatto, e infatti per quella ricorrenza avevamo fatto la prova di evacuazione, diciamo, 3 ore prima, tutti tranquilli con il caffè in mano durante la prova di evacuazione, poi 3 ore dopo c'è stata il vero terremoto, tutti, oddio, se è una prova, l'hanno fatta molto realistica. E niente, siamo corsi fuori, abbiamo aspettato che la terra smettesse di tremare, 2 giorni dopo siamo rientrati in Italia. Eh sì, per poi ritornare e vincere. Classe 2000, Simone Barlam, nato con una gamba più corta dell'altra. Direi il professor Tirelli è un ragazzo che ama le sfide, non solo per quello che ha vinto, ma per il modo in cui è arrivato in piscina e anche per questa avventura che sta vivendo in Australia. Insomma, le cose facili, professore, mi sembra che non gli piacciano. Sì, ma infatti io sono molto emozionato perché di fronte a persone come Simone io sento proprio brividi di ammirazione, ma che sono reali, perché capisco che ci sono persone in grado di far diventare difficoltà delle situazioni di risorse interiori potentissime che diventano poi da esempio per tantissime persone. Infatti volevo chiedere a Simone, le tue abilità, questa capacità a livello atletico, a livello mentale, quando hai iniziato a percepirle? Nel senso che hai avuto questa percezione che molti definiscono il fuoco dentro, che sentono fin dall'inizio, oppure ad un certo punto è scattato qualcosa che ti ha fatto capire che tu potevi ambire, fare, essere e quindi raggiungere obiettivi che molti altri, per altre ragioni, non riescono invece a raggiungere? Beh, diciamo che questo fuoco, questa cattiveria agonistica, mi sento che sia, diciamo, cresciuta in me più che mai quest'anno. Anche prima di tutti per i risultati che cominciavano a diventare di un certo livello, e soprattutto quando sono arrivato qua in Australia a luglio, che ho iniziato a... Non so, ho cambiato mentalità, ho iniziato ad allenarmi veramente serio, facevo 6 allenamenti, cioè 6 giorni a settimana, facevo 11 allenamenti in acqua più 6 in palestra, una 50ina di chilometri alla settimana, col primo dalle 5 alle 7 di mattina, il secondo dalle 5 e mezza alle 7 e mezza di pomeriggio. E lì diciamo che mi ha aiutato molto il mondiale come obiettivo, perché senza... di quell'obiettivo probabilmente non sarei stato così concentrato su, appunto, l'obiettivo e così cattivo, se si può dire così, con questo fuoco dentro. Infatti una cosa che caratterizza spesso le persone che fin da piccoli, come tu hai descritto anche in alcune tue interviste, hanno dovuto imparare a convivere col dolore, no? Ricordo che hai dovuto subire tante operazioni e quindi hai dovuto convivere con questa situazione che, se, come dire, non si ha questa grinta interiore dentro, ti può in qualche modo limitare. Tu invece sei riuscito a trasformare questo dolore in una sorta di energia propulsiva. E per questo ti chiedo, tu oggi sei in grado mentalmente, laddove ci sono delle situazioni di particolare sofferenza, dolore anche fisico dato dagli allenamenti, a mettere un freno e a controllarlo? Hai guadagnato questa capacità di allenare il dolore? Diciamo che il dolore che gli allenamenti ti provocano, il dolore muscolare, è un tipo di dolore che ti vai a cercare, perciò è abbastanza, quando arriva sai che c'è, cerchi di sopportarlo e resistere e continuare ad alzare l'asticella, mentre il dolore che ti può dare un'operazione o una condizione medica è purtroppo fortunatamente tutta un'altra cosa, è molto molto peggio. Un oro nei 50 metri stile libero, un oro nei 100 metri stile libero, l'argento nella 4% stile libero, quindi nella staffetta, e il bronzo nei 100 metri dorso. Questo è il bottino di Simone Barlam ai recenti mondiali di nuoto paralimpico a Ciudad del Messico. Allora ragazzi, se siete d'accordo, prendiamoci un attimo di pausa, così Simone si può prendere un altro caffè in questa alba anticipatissima australiana, dove l'abbiamo pescato per essere ospite qui a Olimpia, e poi ci ritroviamo fra pochissimi istanti sempre nelle vie di Olimpia, la città dello sport. Meraviglioso. In Italia siamo così abituati alla meraviglia che a volte non la notiamo. Quando in realtà è ovunque, anche nei campi, dove Orogel coltiva da sempre le verdure migliori, seguendo il ritmo della natura, curando ogni dettaglio, dalla semina al raccolto, fino alle vostre tavole, per farvi riscoprire in ogni piatto tutta la meraviglia della nostra terra. Orogel, la meraviglia di ogni giorno. Meraviglioso. Olimpia, miti e verità dello sport. 38 medaglie, il bottino dell'Italia del nuoto paralimpico ai mondiali di Città del Messico, e oggi a Olimpia un ospite davvero particolare, uno di quei nuotatori che ha contribuito e non poco a rimpinguare questo bottino con due ori, un argento e un bronzo. Il primo passo, direi, di una carriera che chissà cosa ci regalerà, non diciamo niente, però insomma... Tokyo 2020, una Paralimpiade, tutto sommato è dietro l'angolo. Intanto siamo andati a pescarlo nell'alba australiana, dove vive e studia. Simone Barlam, ben ritrovato oggi qui a Olimpia, la città dello sport. Grazie mille, salve a tutti gli ascoltatori e a voi. Qui vicino a me in studio Stefano Tirelli, mio compagno di viaggio abituale quest'anno a Olimpia, e poi il papà di Simone, Riccardo, amico, collega, anche regista di quello splendido docufilm I Pesci Combattenti, che ha raccontato proprio la marcia d'avvicinamento dei nuotatori paralimpici alla Olimpiadi di Rio 2016, un'edizione altrettanto ricca di medaglie, anche quella. Senti Simone, allora dobbiamo subito, c'è un vulnus profondo che nella famiglia Barlam, che è stato causato da una tua intervista, perché io ho qua tra le mani la prova del reato e adesso ti vado a leggere, e c'è papà molto contrariato, non so se pagherà il biglietto di ritorno dall'Australia. Quindi cerchiamo subito di chiudere questa vicenda nel modo più amichevole possibile. In una tua intervista a Vanity Fair, a domanda specifica, tu rispondi così: la domanda dell'intervistatore, i suoi genitori invece che ruolo hanno avuto nella sua carriera, nella sua vita? Tu rispondi così, una risposta che ci ha lasciato a bocca aperta, caro Simone: mi hanno sempre supportato, mio papà era un triatleta, io ho provato ma bici e corsa erano troppo pesanti. Ecco Simone, adesso hai la possibilità di scolparti a distanza di sicurezza, tu in Australia, papà qua in studio. Noi sappiamo bene che papà fa ancora il triathlon, è grande protagonista, si allena tutti i giorni. Perché l'uso di quell'imperfetto che tanto male ha fatto al tuo caro genitore? Beh, diciamo che probabilmente c'è stato... Non ci siamo capiti bene tra io e il giornalista. È colpa del giornalista. Va bene che mio papà fa ancora triathlon come non mai, e come no. Sei diventato già come il peggiore dei calciatori, Simone, veramente, con queste scuse, colpa dei giornalisti. Guarda, lui lo sa. No, perché o probabilmente mi sono espresso male io o... e di conseguenza ha capito male. Con la scusa di andarlo a trovare il mese di maggio, ho cominciato da due giorni nella mia testa a prepararmi per l'Ironman che c'è in Australia l'8 maggio, e andrò a trovarlo. Per questa, la scusa è l'Ironman in realtà, per andare a trovare Simone, magari farci qualche immersione lì nella barriera corallina. Beh, infatti al di là degli scherzi, vale la pena ricordare anche, Riccardo, la tua passione per lo sport. Sì, no, io poi... diciamo sono uno sportivo di un altro livello decisamente, perché arrivo in fondo al gruppo, ho fatto una quarantina di maratone, gran fondo, scritto dei libri sullo sport come terapia e per la vita quotidiana, diciamo così. Però ho fatto appunto anche l'Ironman, che è la distanza più lunga del triathlon, 4 volte, che come... per chi non lo sapesse, è come andare in un giorno a nuoto da Messina in Calabria, poi fare in bici da Bologna a Siena e poi fare da Milano a Bergamo di corsa, ecco, tutto in un giorno. Quindi tutto gratis, cioè senza che ti pagano, per me questo, esatto, è inconcepibile. Esatto, totalmente, cioè... da pazzi, però come terapia io da qualche tempo ho cominciato a farlo, e devo dire anche per la vita quotidiana, e ho questa idea dello sport, che non è ai livelli di Simone ovviamente, perché io arrivo in gruppo, per me arrivare è già una vittoria. È totalmente un altro spirito, anzi mi dà fastidio quando vado con dei podisti o dei ciclisti e vedo subito che c'è questa cosa di battere il compagno. Quando siamo cinquantenni, persone che insomma hanno un lavoro, una famiglia, tante cose da fare, ma è tutto un altro tipo di cosa, ecco. Quindi Professor Tirelli, direi che però questa trasmissione di questa condivisione di questa passione per lo sport è anche un filo rosso attraverso cui forse proprio la famiglia ha dipanato, sciolto e anzi reso fertile il terreno lungo il quale poi le capacità di Simone si sono espresse e si stanno esprimendo a così alto livello, no? Sì, diciamo che sicuramente questo interesse e questa passione nei confronti dello sport da parte di Riccardo, sicuramente anche della mamma di Simone, hanno seminato su un terreno molto fertile, perché non sempre la semina poi trova i giusti frutti poi da raccogliere. In questo caso, parlando di Simone, io sottolineo il fatto che è molto raro, no? Pensare che un ragazzo così giovane ogni mattina si sveglia alle 5, faccia 2 ore d'allenamento, poi va a scuola, studia, fa tutto, torna al pomeriggio, fa ancora un'ora e mezza d'allenamento, poi grazie al cielo il sabato e la domenica, come dice lui stesso, va in letargo. E questa è una cosa che secondo me è esemplare. Poi tra l'altro Riccardo prima parlava di arrivo in gruppo quando faccio le mie gare, quindi uno spirito anche di gruppo. Proprio su questo volevo chiedere a Simone: com'è stato il tuo ingresso nell'ambito della nazionale nel momento in cui ti sei trovato di fronte a uno dei maggiori campioni, più grandi della stessa nazionale, che poteva incutere magari per te timore, una sorta di reverenza nei confronti di chi rappresenta un leader? Come l'hai vissuto e com'è il vostro rapporto? Beh, il mio rapporto con Federico in acqua è il primo avversario di cui bisogna aver paura, perché è un campione che ha un sacco di risorse, non sai mai, è molto inaspettato, può fare cose che nessun altro è in grado al mondo in grado di fare. E con lui ho un bellissimo rapporto, è come una sorta di fratellone, di zio che mi tiene sotto la sua ala protettrice, mi aiuta, mi ha dato un sacco di consigli sin dalle prime volte in cui ci siamo conosciuti, in cui ci siamo incontrati, consigli tecnici su come migliorare la nuotata e non. Perciò ho un bellissimo rapporto con lui. Poi i ragazzi della nazionale, alcuni li conoscevo già, ma sia lo staff che gli atleti sono stati gentilissimi, molto simpatici, hanno accolto noi matricole, noi esordienti a braccia aperte. Questo ti fa ulteriormente onore, perché a volte l'arrivo di un nuovo soggetto in un team e di fronte a un leader può trasformarsi in un conflitto. Invece tu sei una ragazza intelligente e questo è riuscito a far sì che si plasmasse il tutto in modo molto armonico. Beh, ti ringrazio per queste belle parole. Federico è Federico Morlacchi. Eh sì, Federico è Morlacchi. L'italiano più medagliato a Rio, per la cronaca, tra Olimpiadi e Paralimpiadi. E poi buon amico d'Olimpia, perché ricordi Riccardo fece tintinnare proprio qui le sue medaglie paralimpiche. Simone, non ti fidare, quello è cattivissimo. È stato bellissimo alla finale dei 100 metri, dove Federico è arrivato terzo e Simone primo. Io pensavo, oddio, adesso si arrabbierà, invece si sono abbracciati, io li ho chiamati fratelli d'Italia. E tanto Federico poi mi ha spiegato che per lui è stato un gran successo, perché a Rio era nella stessa gara era arrivato quarto, quindi per lui arrivare al bronzo è stato comunque... Tra l'altro Federico è uno che non si risparmia, ha fatto tantissime gare, quindi ha vinto 7 medaglie e 2 ori. Insomma, veramente campionissimo da cui imparare molto. Simone, cosa ti fa paura invece in un momento così particolare di successi, di bei risultati anche fuori dall'acqua, di grandissimo impegno? C'è qualcosa che ti spaventa, ti intimorisce? Oggi come oggi no, sono perché ho chiari nella mia mente i prossimi obiettivi e so che devo ricominciare a lavorare per questi, e adesso sono in un momento abbastanza felice, diciamo, della mia vita, e non ho paura di niente in particolare adesso, penso, niente certamente legato al nuoto e alla vita quotidiana. Senti, le medaglie paralimpiche fanno effetto sulle australiane? Si può dire qualcosa? Togliamo la cuffia a papà, insomma, cioè uno torna con un po' di medaglie paralimpiche, insomma, se ho visto che fate i barbecue sabato, domenica, ma grego volentieri pure io quando c'è la possibilità, però insomma fa un certo effetto da campione mondiale, insomma, immagino. Beh, diciamo che quelle, l'accento italiano, fanno la loro figura. Oh, ecco, benissimo. Quindi altre medaglie in arrivo in tutt'altro campo, però e siamo vicini alla chiusura, però prima di lasciarti salutare anche dagli altri amici, ti chiedo, immagino alludevi ai prossimi obiettivi, credo che Tokyo 2020 sia in questo momento ben fisso nella tua mente, anche perché Città del Messico ha dato concretezza a un potenziale che prima appunto era tale e che adesso si sta cominciando a dispiegare, no? Beh, più che Tokyo, perché per quello potrò pensarci più chiaramente tra due anni, certo, si pensa anche a quello, ma i principali obiettivi, oltre che tutta la stagione, i nazionali, i campionati statali con la squadra australiana, l'anno prossimo ci saranno i giochi del Mediterraneo, credo a giugno, e a fine agosto gli europei a Dublino. Perciò quelli adesso sono i principali obiettivi. Allora, una domanda da parte di Stefano Tirelli, poi ti facciamola salutare con un affettuoso abbraccio da papà, dai. Stefano. Ecco. Sì, Simone, una cosa volevo chiederti, senza caricarti di responsabilità, e questo lo voglio dire, cosa potresti dire ai tuoi coetanei? Cioè, molti in questo momento hanno timori per il presente e per il futuro, sono abbastanza spaesati. Visto il tuo carattere, il tuo carisma, hai una parola che puoi dare, puoi riferire loro? Sì, la prima parola che mi viene in mente da riferire a dei miei coetanei che sono insicuri e che hanno difficoltà nella vita di tutti i giorni è impegno, perché l'impegno è la chiave fondamentale che ti permette di fare qualsiasi cosa tu desideri, e lo dico io in primis perché è quello che, diciamo, penso mi abbia portato a questi risultati. E non solo agonisticamente parlando, ma anche nella vita di tutti i giorni, nello studio, nel trovare lavoro. Se ti impegni e credi in una cosa, ci provi con tutte le tue energie, penso che avrai sempre un successo. Riccardo Barla, ma allora te la chiusura, che si dice a un figlio che sta in Australia? Attenta agli squali, no, copriti. Certo, certo. No, copriti e mangia, questo è un classico italiano. No, una cosa bellissima che ha detto sua sorella Alice appena lui ha vinto la prima medaglia d'oro dei 50 stile, e l'ha salutato affettuosamente, gli ha detto: per me sei lo stesso di quando sei arrivato terzo su tre alla piscina di Magenta. Te Simone gli ha detto: no, guarda, qualcosa è cambiato, con tutto il bene che ti voglio. No, gli ha dato ragione. È stato un bel momento. E allora davvero ti auguriamo qui da Olimpia di aumentare sempre di più il palmarès e invece di non cambiare mai quello che sei oggi e chi ci hai raccontato. Allora, Simone Barla, intanto grazie e buonanotte, perché ti auguro almeno un'altra mezz'oretta di sonno prima di cominciare allenamenti e studi. Un saluto da parte di Stefano Tirelli. Grazie Simone, sei un grande esempio, continua così soprattutto come persona. E un abbraccio da grazie papà. Mille. Ciao Simo. Ciao papà, grazie a te Radio, è stato un piacere essere ospiti a fare questa chiacchierata con voi oggi. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.